Prima domenica dopo il terremoto, primo giorno di ammissioni gravi e dolorose da parte delle autorità nipponiche, come quella che esiste un'altissima probabilità che quanto accaduto ieri al reattore numero 1 della centrale di Fukushima si ripeta nelle prossime ore in quello numero 3. E ancora, sempre nell'impianto 3, il livello dell'acqua di raffreddamento nelle ultime ore si è notevolmente abbassato e barre di uranio sono ora scoperte per più di 3 metri. Ammissioni come quella che l'intervento per mettere totalmente in sicurezza il primo reattore di Fukushima è sostanzialmente fallito e poi le cifre, ora fornite dalla polizia, ora fornite dal governo. Un tecnico è morto ieri a causa dell'esplosione, 11 le persone ferite nel complesso nucleare, 22 quelle date per contaminate su un numero di 140 possibili soggetti a rischio. E pensare che solo poche ore prima la diffusione di queste notizie, Yukio Edano, capo della segreteria del governo, dichiarava che il livello di elementi radioattivi nell'atmosfera era ed è limitato a tal punto che la popolazione non avrebbe nulla da temere. Ora Simpson, visto che da anni sei un esperto tecnico nucleare, ti imbarcheremo su un sottomarino nucleare. Nucleare, si pronuncia nucleare. Banda armata può cominciare. Razzinga! Razzinga! Il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici Razzinga, Razzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita. La chiesa mattina dice Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, lotta cade, si rialza sempre più. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga, Razzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà, Razzinga. Santa, lama diabolica, doppio rosario. Benvenuto ad una nuova e scoppiettante puntata di Banda Armata. Ecco, salutiamo tutti gli ascoltatori, quelli live in diretta nella grande aula più occupata dell'Università della Calabria, Pierluigi, Flavio, che oggi è ascoltatore, come proprio un crew. Poi c'è il nostro maestro subcomandante Tarlo, abbiamo anche lo speaker VJ Pierpaolo e poi alla regia Peppone. Io sono Gustavo. Un saluto agli ascoltatori invece sul web, sulle frequenze digitali di Fuori Onda Radio che ci stanno ascoltando, e un saluto agli ascoltatori che ci ascolteranno in differita su Radio Ciroma 105.7 alle 16.30 su giovedì quelli invece che ci stanno ascoltando sempre in differita su Transizione di Fase, sempre giovedì alle 21.30, se non vado errato. Peppe mi fa sì con la testa. Una giornata intensa come sempre, parleremo di nucleare, le nuove dichiarazioni del governo, parleremo di nucleare, come avrete potuto capire dal nostro curioso intro. Parleremo della manifestazione che c'è stata la settimana scorsa a Napoli, parleremo dell'occupazione che è stata fatta dall'ufficio Prendo Casa di Cosenza, che hanno fatto un ottimo lavoro ai Palazzi Ater nel centro storico di Cosenza. Parleremo di quello che è successo nella nostra Calabria, ricollegandolo ad un altro dramma, ovvero sia parleremo della tragica questione dei lavoratori della Marlane. Oggi c'è stato il rinvio del processo e poi collegheremo questo fatto al barlume di speranza che ha dato, diciamo, ha dato le nuove decisioni per quanto riguarda il caso ThyssenKrupp. Quindi, diciamo, sarà una puntata molto intensa. Il prossimo argomento è il nucleare, ma intanto pezzo, facci un Peppe. Avanti, dove sei? hai venduto la tua casa, la tua donna, la tua rosa. Siamo l'ombra del disprezzo del potere, ad ogni prezzo, uomo, dove te ne andrai? Siamo solo disperati e seri stanchi, non possiamo andare avanti. Dove sei? Uomo, cosa fai? Hai venduto la tua casa, la tua donna, la tua rosa. Siamo l'ombra del disprezzo del potere, ad ogni prezzo, uomo, dove sei? Pezzo di Peppo Pollina, questo pezzo si chiama Chernobyl, 10 anni dopo del maestoso maestro del panorama musicale italiano, Peppo Pollina. Queste sono le ricerche di Peppe, questa è la ricerca libera di Peppe Lange, anche dal punto di vista musicale. Ecco, noi ci siamo ritrovati tra le mani oggi una grandiosa notizia, la grandiosa notizia che grazie al lavoro imperituro e costante di Rutelli il governo non farà il nucleare. Peppe, tutto a posto? Sì, ecco. Il governo non farà il nucleare. Ecco, questa notizia è ovviamente dovuta a quelle che sono i lasciti dello tsunami, i lasciti dello tsunami giapponese, dovuta anche alla situazione che si è vista davanti il governo, sia dal punto di vista interno che dal punto di vista esterno, perché è importante capire che le pressioni e le movimentazioni, i movimentismi, come a noi piace definirli, che si sono aperti, si sono avviati per cercare, come anche stiamo cercando di fare con la rete in difesa del territorio, per cercare di fare un fronte unico con tutte le questioni, sia quella dell'acqua che quella del nucleare, diciamo non fanno assolutamente ben presagire ai nostri governanti, che vorrebbero la strada facile per distribuire, diciamo, a pioggia quelli che sono i soldi pubblici e darli in mano ai loro amici con la costruzione di queste grandiose innovazioni che secondo loro sarebbero le centrali nucleari. Pierpa, tu che ne pensi questa cosa? Beh, innanzitutto queste centrali nucleari non si faranno più, perché oggi il governo ha deciso di lasciar perdere, ha deciso di tornare indietro, di far marcia indietro completamente, o almeno questo è quello che vuole far capire agli italiani in questo particolare periodo in cui i sondaggi danno netto vantaggio i sì, che poi sarebbero i no al nucleare, in vista del prossimo referendum. Cosa ha fatto il governo oggi? Cerchiamo di capire un pochettino meglio, al di là di quello che va a dire Rutelli, che si sta autolodando quale salvatore della patria praticamente. Il governo oggi ha deciso di abrogare tutte le norme previste per la realizzazione di impianti nucleari del paese. Un emendamento che da domani si voterà in Senato e chiaramente passerà anche con i voti dell'opposizione, molto probabilmente, o di una parte di essa. Cosa succede? Succede che Il governo si è reso conto che in questo momento qua, a 2 mesi, neanche 2 mesi dal referendum del 14 giugno, 14-15 giugno mi sbaglio, 13-14 giugno, 12-13 giugno, un po' prima, a distanza di 2 mesi, anche 2 mesi dal referendum, si è reso conto che gli italiani sono palesemente contrariati dalla decisione del governo di ritornare al nucleare, specialmente, anzi soprattutto, dopo il disastro nucleare giapponese. E quindi il governo ha deciso di sabotare in maniera vera e proprio questo referendum, come? Abrogando queste norme che prevedono il ritorno al nucleare, prendendo tempo nella pratica dei fatti, prendono tempo, dopodiché il referendum salta, o meglio salterà se dovesse passare questo emendamento, salterà il referendum sul nucleare, e di conseguenza... Ma io non lo so se salterà, tu sei sicuro di questo? Salta perché viene meno il quesito per l'abrogazione della legge, in quanto la legge stessa viene abrogata prima che ci sia il referendum, quindi viene meno il referendum stesso, il quesito referendario. E questo è chiaramente un modo subdolo del governo per evitare che si dia la parola al popolo. Certo, per evitare che il popolo, ancora una volta, a distanza di 20 anni, torna a sottolineare quella che è la sua volontà, perché in quel momento lui si troverebbe con le mani legate, mentre magari fra un annetto riprenderà la vecchia strada. Ed esattamente questo è l'intento del governo, il nostro modo di vedere, cioè quello di insabbiare per il momento la questione nucleare, poi quando l'onda emotiva del disastro di Fukushima sarà passata, si ritornerà nuovamente a dire ok, ma il nucleare è sicuro, il nucleare è buono, il nucleare è pulito, il nucleare ci svincola dal petrolio e tutte quelle grandissime stronzate che ci hanno propinato negli ultimi mesi. Di cui abbiamo già ampiamente dissertito nelle scorse puntate. Nelle scorse puntate, ovviamente. Giusto per fare per una nota di cuore, c'è Di Pietro che con il suo coloritissimo linguaggio sta gridando alla truffa, una truffa detta dalla paura, e probabilmente in questo caso non ha tutti i torti. Ricordiamo che in questi giorni le notizie che provengono da Fukushima nel frattempo sono sempre più disastrose, il livello di allarme si è innalzato al livello 7, per l'appunto, che è il massimo, 7 su 7. Oggi alcuni robot sono stati inviati all'interno dei reattori sono state trovate le barre di combustibile dei reattori 1 e 3 fuse, quindi questo non depone certamente a favore di una risoluzione in tempi brevi del problema. Sì, perché i robot ci sono, penso, da un paio di giorni là sulla centrale. La loro speranza era di ritrovare all'interno della centrale un livello di radioattività che permettesse l'intervento dell'essere umano, ma in verità non è stato trovato questo, almeno. Ma anzi, le notizie sono semmai peggiori. E il punto è questo, che se non, la notizia tragica è proprio questa, che comunque se si vuole evitare che la cosa diventi una tragedia, si sta iniziando a paventare la cosa che ci dovranno essere dei martiri, cioè come è successo anche per Chernobyl, nel senso... Qualcuno che si sacrificherà per andare a riparare un minimo di danni che si sono prodotti. Capite? Noi ne vogliamo mettere in rase pedre, ma che ne lo fa fare? Che ne lo fa fare? Ed è... La posizione di Gustavo è chiaramente tutt'altro che sbagliata a mio modo di vedere. Dunque, ora ci troviamo in questa situazione alquanto paradossale, perché ci sarebbe stato un referendum il 13-14 di giugno che avrebbe sicuramente portato, il 12-13 giugno, sbaglio sempre con le date, che avrebbe dato, dicono i sondaggi, il 54%, la percentuale degli italiani intenzionati a recarsi alle urne e a votare ovviamente contro il ritorno al nucleare. Collego questa decisione qui anche a una volontà di sabotare gli altri quesiti referendari, che ricordiamo e in particolar modo invitiamo comunque gli italiani a recarsi alle urne. Che sono ancora ben vivi, voglio dire. Prima che facciano qualcosa anche per sabotare quelli lì, continuiamo a fare campagna referendaria. Ci saranno altri tre quesiti, due relativi alla privatizzazione dell'acqua, e invitiamo ancora una volta a votare sì, ovvero contro, sì per dire no, contro la privatizzazione dell'acqua, abrogare la legge che è stata già approvata dal Parlamento, e un ulteriore quesito referendario è quello che riguarda il legittimo impedimento, e quindi riguarda in prima persona il nostro amatissimo Premier. Chiaramente facendo venir meno il quesito referendario sul nucleare c'è il rischio che ci possano essere anche molte persone in meno che vadano a votare anche per l'acqua e per legittimo impedimento, quindi si sabota il referendum sul nucleare per sabotare anche gli altri. Beh, sicuramente dei tre quesiti quello là del nucleare era il più ostico da affrontare, nel senso se non altro per il periodo in cui siamo e per la fase che stiamo attraversando, sia da parte loro e sia da parte nostra, perché cioè, sinceramente io penso che sull'acqua possiamo andare tranquilli. Queste furono le ultime parole famose di Gustavo, di Pierpaolo. No, è importante la nostra presenza, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, sia quelli di Radio Ceramo 75.7, sia quelli di Tensione di Fase, sia quelli che ci stanno ascoltando sul web. È importante essere il 12-13 giugno alle urne. Sì, a tutti i parti. Sì, scrivete sì. Lo slogan è vota sì per dire no, ed è esattamente così che funziona. Cioè, dice sì per abrogare queste leggi truffa. Lo slogan è sì, di sì anche a Peppe Lanci, che adesso mette un pezzaccio. Vai, Peppe. Attenzione, sono arrivati anche grandi ospiti che tra poco vi faremo conoscere. Dai, Peppe, sei bellissimo. Ecco, e noi riprendiamo parlando della manifestazione No War Napoli. I compagni di Napoli hanno organizzato, hanno preso in mano sostanzialmente la fiaccola della... Del movimento contro la guerra che si badi a distinguere dal pacifismo, perché ci teniamo a... non vorremmo essere lapidati per questo, perché effettivamente da un po' di tempo il movimento contro la guerra, che ha avuto i suoi... Stava dormendo, diciamo. Ha avuto i suoi momenti più splendidi una decina d'anni fa, latitava nella questione irachena, latitava in più parti, insomma è stato poco forte. Questa manifestazione, diciamo, a quanto riporta chi c'è stato, eccetera, eccetera, ha fatto... Diciamo subito che noi siamo stati per diversi motivi assenti. Noi siamo stati per diversi motivi che ovviamente non hanno nessuna motivazione politica. Io sono da suonare, per dire. Io personalmente stavo male. Ecco, appunto, sì. A casa fanno vave, ma alla fine... Comunque, detto questo, questa piccola parentesi di outing, di delirio. La manifestazione di Napoli era una manifestazione importante. Non a caso noi ci siamo spesi per far sì che la cosa si sapesse. La trasmissione Banda Armata ha parlato per due settimane di fila da quando è iniziata ha parlato della questione libica, ma in particolare per due settimane da quando è stata pubblicata ha parlato di questa manifestazione. Quindi siamo stati partecipi, non siamo riusciti ad essere lì, ovviamente non per i motivi che abbiamo detto prima, ma per questioni impellenti che non è stato possibile rimandare. Comunque le tematiche di quella manifestazione erano le tematiche che ci siamo detti sempre, ovvero sia non con Gheddafi, non con la NATO, ma con il popolo libico. Questa è la grande... il grande urlo che è stato... Popolo libico che si prende le bombe della NATO, che si prende le bombe di Gheddafi, quindi che è l'unico a soffrire per ben due volte dagli attacchi delle ambedue le parti. Che se ci fai caso, comunque c'è Gheddafi che difende la rivoluzione, c'è la NATO che difende i civili, chi sa che ne l'ammazza, si ammazzano sole. Questo è Harakiri, moderno i giapponesi. Ecco, questa è la situazione che è ovvio che si... che si verifichi nel momento in cui questa la guerra che si fa è una guerra di stampo prettamente imperialistico, ovvero sì, di stampo prettamente economico, che viene fatto non già come si sbandiera ai 420 per i diritti, per la dignità, come abbiamo detto da tempo, ma per il petrolio, per il gas naturale, per gli interessi economici, anzi, delle multinazionali. Anzi, ovvio, ci resta solo petrolio e che rimorano tutti per loro è tanto di guadagnato, tanto di guadagnato. Quindi sabato abbiamo ribadito anche a Napoli questa grande verità. Il corteo si è fermato di fronte alla base NATO di Bagnoli. Si parla di circa 3.000 persone, che non sono molte, ma per iniziare, già che, come dicevamo precedentemente, il movimento contro la guerra in Italia era abbastanza dormiente da un bel po' di tempo, va bene lo stesso. Un'altra riflessione da fare è che comunque queste sono tematiche che non è una manifestazione per l'acqua, non è una manifestazione, insomma, di respiro, diciamo, un po' più populista, che può... Le 3.000 persone che erano là erano 3.000 persone convinte, 3.000 persone, diciamo, militanti, quindi è un risveglio anche di qualità, se vogliamo, no? Oltre che di quantità. Beh, di certo su questo poi ha influito negativamente la campagna di TV e giornali, che si sono tutte chiaramente schierate a favore dell'intervento militare, ponendolo come inevitabile, come un intervento umanitario. Nelle precedenti puntate più e più volte abbiamo già detto che questa non è una guerra, questa è una missione di pace. L'articolo 11 della Costituzione, che in tanti in Italia sbandierano e dicono di amare, dice che l'Italia ripudia la guerra e quindi di conseguenza l'Italia non è in guerra, così come non è in guerra nessuno degli altri paesi della coalizione. Per fortuna che il mainstream ha un avversario tanto forte quanto Banda Armata, che tiene testa con le sue con i suoi due ascoltatori. Con i suoi due ascoltatori abbiamo, wow, 50% in più. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Banda Armata che ci stanno ascoltando in diretta sulle frequenze digitali di Fuori Onda Radio e che ci ascolteranno in differita su Radio C Roma 105.7. Così no? Su Radio C Roma 105.7 e su Transizione di Fase giovedì, i primi alle 5:30, alle 4:30 e i secondi alle 9:30. E adesso come terzo il nostro Peppone Lange ci fa risognare. Vai Peppe. When I was younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They called ahead, through red hot pickers, through thick and thin. They found a shelter under my skin. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core, and it's hardcore. All is hardcore. Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di Fuori Onda Radio. Parliamo adesso di qualcosa che sta succedendo da domenica scorsa, il 10 di aprile, in quel di Cosenza. Tre famiglie del comitato Prendo Casa hanno occupato a scopo abitativo un palazzo ATERP. ATERP sarebbe, Ferdinando mi correggerà se sbaglio, l'ente delle case popolari di Cosenza. Hanno occupato quindi questo palazzo del centro storico, che era stato ristrutturato da 2 anni e che era semplicemente vuoto. Il problema dell'abitazione, del diritto ad una casa vera e propria, a Cosenza sta diventando sempre più importante. Ci sono diversi altri nuclei familiari che sono senza una casa o comunque su cui incombe il problema dello sfratto esecutivo. E di conseguenza da un po' di tempo alcuni attivisti, principalmente facenti parte del centro sociale Rialzo, hanno deciso di creare, di mettere in piedi questo comitato Prendo Casa, che per l'appunto è uno sportello per tutti coloro che hanno questo importantissimo problema. Ma molto meglio ne saprà parlare per l'appunto Ferdinando, che è una delle persone che più di tutte si sta impegnando in questa difficile impresa. Il nostro Kevin Costner. Vabbè, io porto un appello: cacciate Gustavo da questa radio, diciamo. Niente, insomma, come giusto prima ricordavi tu, da domenica siamo in occupazione con 3 nuclei familiari all'interno di questa palazzina ATERP, che è una palazzina ATERP che rientra in quel progetto che è di dare alcuni alloggi di proprietà ATERP e comune nelle mani dell'università per far, come dire, popolare il centro storico anche da parte degli studenti o dei ricercatori. Una pratica che già è stata attuata in un palazzo sempre nel centro storico, che è a Via Gaeta, Palazzo Bombini, che venne occupato, Flavio se lo ricorderà, nel 2007 proprio da un comitato di lotta per la casa. Poi insomma finì quell'occupazione, loro lo diedero all'università. Attualmente ci stanno 11 ricercatori e 3 studenti del conservatorio di Cosenza. 11 ricercatori, naturalmente chi con famiglia, chi è singolo, in casa enormi, insomma in un palazzone enorme che potrebbe, come dire, contenere 13 famiglie che hanno l'emergenza abitativa in questo momento nella città. Quindi il palazzo che noi abbiamo occupato domenica rientra anche in questo piano, seppur sono 3 appartamenti, però rientra proprio in questo piano. E noi l'abbiamo occupato perché crediamo che questi palazzi debbano andare prioritariamente a chi realmente ha il problema abitativo in questa città. E sono in tanti, perché insomma gli occupanti di via Salita Sant'Agostino sono 3 giovani coppie, quindi insomma quelli che cominciano a vivere la crisi in maniera, no, magari fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa la vivevano molto di meno, adesso no, sono i nuovi che vivono la crisi. E ci sono tante altre persone, anche gente che sta all'interno del comitato, che è all'interno delle legislature popolari dall'86, chi dal 96, chi dal 2005, che sono in attesa di una cosa popolare, si sono, come dire, rivolte a noi, si organizzano con noi sulla questione abitativa. Questione abitativa che a Cosenza conta. Nel 2005 conta 1780 domande di richieste di casa popolare. Quindi nell'ultimo bando per l'alloggio popolare parlo di 1780 domande. Però stiamo parlando del 2005. Sono passati 6 anni, c'è una crisi da 2 anni fortissima. Noi pensiamo che la cosa si sia, non dico triplicata, ma almeno se... Vabbè, ma è chiaro che il loro progetto è quello di fare, diciamo, un centro storico d'élite, no? Cioè, tipo Ponte Vecchio, capito? Cioè, loro vogliono fare... Quindi, c'è, cioè, che ci può mettere un precario, ci può mettere... devi dicendo che un ricercatore vale molto di più di un muratore, di un operaio. Esattamente, ci vedo che ci può mettere un operaio. Tu devi mettere gente che può scendere giù, fare la spesa dal salumiere di fiducia che ci vendono un presunto a 40 euro chilo. Insomma, tutte queste cose. Il problema è che quello del centro storico di Cosenza è quanto di più abbandonato possibile. Cioè nessun ricercatore pensa di andare a vivere là. Uno, per come è nelle sue condizioni strutturali. Due, per il fatto che c'è un... è completamente distaccata dall'università, quindi insomma non ci sono servizi pubblici che garantiscono la viabilità da qui a, dall'università a Cosenza. Insomma, il ricercatore lì ha seri problemi per muoversi verso l'università. E quindi stavamo dicendo, questa storia sicuramente sono duplicate, triplicate le persone che in questo momento hanno proprio abitative. In più c'è da considerare che c'è tutta una parte di migranti che vivono la questione abitativa, che hanno un grosso problema abitativo, che naturalmente non è contemplato nelle leggi di questa regione, perché la legge regionale della Calabria dice che un migrante può entrare nelle graduatorie popolari nel momento in cui è residente in questa regione, in questa città, da 5 anni. Quindi naturalmente tutti questi flussi... E intanto in questi 5 anni, dico... Che fanno? Dove stanno? Dove vivono? E infatti, insomma, c'è una condizione comunque... A Cosenza comincia a dilagare, perché comunque c'è un gran flusso di arrivi di immigrati e Cosenza sta... Come dire, ci sono tanti immigrati che cominciano a vivere a Cosenza. Noi ne ospitiamo 20 al rialzo, non è un caso, insomma, che al rialzo ci abitano 10 somali e 4 senegalesi. La condizione abitativa è un problema, diciamo, molto generalizzato in questo momento. No, siccome anche la questione migranti non è una questione di cui voi vi occupate, no? Se a te va, facciamo uno stacco e dopo magari facciamo anche un passaggio su questo. Peppe, eh? Wish I were with you, I couldn't stay. Every direction leads me away. Pray for tomorrow, but for today. To be home. to be home. Salutiamo il nostro picco più ampio di ascoltatori, che sono ben 50. Sì, vabbè, diciamo 50 con qualche periodo in meno. Qualche giorno in meno. No, vabbè, quelli 50. E comunque io eviterei di continuare a dire minchiate e faccio parlare Ferdinando, che è una persona seria, va. Dicevamo, abbiamo lasciato il discorso a metà sulla questione abitativa, che non coinvolge solo Cosentini, come abbiamo visto, Cosentini giovani, che sono quelli che dovranno costruire la Cosenza di domani, che la stanno costruendo con tanta difficoltà, ma coinvolge anche quella fetta che è marginale alla realtà italiana, sia normativa e non, che è quella dei migranti. Comunque, con piena libertà, Ferdinando, facci fare un ulteriore giro in questo mondo particolare. Ma, ritorniamo sulla questione abitativa in generale, per ricordare, insomma, che comunque la Cosenza in questo momento, a fronte di una grossa, diciamo, richiesta di soluzione abitativa, ha dal suo canto una risposta degli enti come l'ATERP, che è l'agenzia territoriale, azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, prima Istituto Case Popolari, che nel 2005 ha fatto una nello scorso agosto ha fatto una graduatoria dove c'erano 900 persone iscritte in questa graduatoria, che insomma per il diritto per avere l'alloggio popolare. In questa graduatoria, dopo le 900 persone, c'è un nota bene alla fine, dove scrivono: nota bene, l'ATERP non ha immobili per poter soddisfare questa richiesta abitativa. Noi, insomma, un po' di indagini così l'abbiamo fatta. Insomma, ci sono almeno 5 palazzi ristrutturati dall'ATERP, dati al comune, poi che il comune ne ha fatto questa sorta di accordo con l'università e alle date dell'università. In più ci sono case chiuse dell'ATERP, in più palazzi che sono messi in affitto da parte dell'ATERP. Per non parlare di tutto il patrimonio comunale che c'è, esistente, che potrebbe, come dire, con una politica seria di non di nuove costruzioni, ma di restaurazioni, ristrutturazioni dell'esistente, soddisfare, non dico tutto, ma almeno la metà del problema abitativo esistente al momento. Quindi, insomma, c'è una politica incentrata chiaramente al cemento, che quindi non guarda in faccia il problema abitativo. Insomma, Viale Parco è quello che, insomma, sarà, è quello che adesso Viale Principe sono i volani per i costruttori di questa area urbana. Cioè, Viale Parco è stata, come dire, un volano per tanti costruttori di questa città per costruire, fare soldi, e rimangono questi palazzi interamente chiusi. In un'ultima inchiesta, diciamo tra virgolette, fatta da Ziparo, tanti conosceranno, lui parlava su Cosenza di almeno 2000 stanze vuote. Quindi, insomma, la costruzione di queste case, e poi queste stanze, queste case che rimangono vuote. Quindi, insomma, bisogna anche interrogarsi sul perché rimangono vuote, su qual è l'effettiva valenza di tutte queste costruzioni. Se si vanno a guardare i dati Istat dell'anno scorso, insomma, la percentuale di persone che avevano il problema abitativo e la percentuale delle costruzioni era completamente diversa. Quindi c'è una situazione particolare. Qualche magistrato, io sono lungi dal pensare che i magistrati dicono cose giuste, però qualche magistrato diceva qualche anno fa che Cosenza era la lavatrice dei soldi dell''Ndrangheta. Insomma, a un certo punto bisognerà anche interrogarsi su questo. Vabbè, basta vedere un po' quelli che sono, diciamo, i grandi nomi della costruzione a Cosenza e fare qualche collegamento. Il passaggio è veloce. Vedere la selva di grandi palazzi nuovissimi che stanno crescendo su, su Viale Parco e anche i progetti che si stanno facendo su Viale Parco, che coinvolgono anche purtroppo l'area dove c'è l'unica cosa viva di questa Cosenza, ovvero sia l'area dove lavorano i ragazzi del rialzo, l'area dove ci sono altre realtà organizzate che lavorano e che, come abbiamo visto, sono sostanzialmente coloro che si stanno sostituendo in tutto e per tutto al ruolo che dovrebbe avere in verità il fantomatico Stato, cioè sono chi studenti, chi lavoratori, chi cittadini di Cosenza che stanno colmando quello che è il vuoto lasciato dalle istituzioni dette democratiche e stanno in maniera eccezionale facendo emergere quella che è la contraddizione che c'è, cioè questa è una grande cosa, no? Tu cosa ne pensi riguardo a quello che sta succedendo in particolare su Viale Parco, per dire? Ma su Viale Parco, diciamo, noi nel 2007 quando occupiamo il rialzo, come dire, ci avevamo visto giusto forse all'epoca, quando diciamo vabbè, andiamo ad occupare lì non solo per costruire un centro sociale ma per, come dire, contrastare realmente, praticamente, la speculazione edilizia, perché all'epoca, cioè 4 anni fa, ancora tutti quei palazzi erano, diciamo, in costruzione, ancora c'era molto verde, diciamo, molte campagne. Col tempo è diventata, grazie alla sinergia di varie realtà che là vivono quell'area, insomma, noi, il Moci, l'Officina Babilonia, è diventata un'area che soprattutto per i migranti ha una grossa valenza, perché comunque ci sono, al di là del dormitorio che è da noi, però insomma ci sono corsi di italiano, c'è comunque degli sportelli per supporto legale, c'è la vendita di mobili piuttosto che vestiti, comunque è una situazione in cui insomma è come se fosse una grande casba all'interno di quella della città, che di fatto protegge questo corpo migrante all'interno di una città in cui comunque alcuni episodi di forme di nuovi razzismi, cose insomma si verificano. Quindi avere, come dire, un presidio in quella maniera nel centro della città in questo momento è una forma anche forte di contrasto a forme di razzismo. L'esempio chiave è il fatto che comunque lì si svolge anche Fiera Immensa, che è un altro evento che seppur per 7 giorni, seppur assistenzialistico, poi alla fine dei conti, comunque sì, ospitiamo 200 migranti, 200-300 migranti a dormire, 800 migranti da mangiare, gli sta da mangiare, comunque però all'interno di un quadro in cui comunque ci sono partiti, movimenti che comunque in Italia sponsorizzano forme di xenofobia, di razzismo, sono, soprattutto al sud da noi, delle forme di presidi antirazzisti nella città, cioè avere una città che è così accogliente rispetto ai migranti che arrivano per la fiera, dare un segnale così forte in un punto nevralgico come quello là dove siamo noi, è, da un punto di vista di sensibilizzazione, coscientizzazione, è molto, molto, molto forte. Diciamo. Comunque, se una battuta di chiusura sulla questione abitativa, così poi lanciamo un altro pezzo e poi magari parliamo della questione della Marlane, che è anche interessante. Sulla questione abitativa noi diciamo, l'abbiamo detto anche pubblicamente alle televisioni, non ci fermeremo qua, nel senso che comunque è stato occupato un palazzo con 3 appartamenti, ci sono tante altre persone nel comitato che hanno evidente bisogno di avere una casa, quindi noi andremo avanti nelle occupazioni. E speriamo, insomma, di occuparli tutti questi palazzi, diciamo, sfitti in questa città. Come speriamo di riuscire a mettere in piedi le occupazioni anche con i migranti nel tempo. Ci sarà anche bisogno di sdoganare questa forma di occupazioni con loro, perché comunque il problema abitativo loro è un problema forte che c'è, naturalmente non viene letto dai nostri politici perché comunque insomma di lungimiranza ne hanno veramente poca, però noi stiamo cominciando a ragionare anche in questo senso anche con loro. In più dobbiamo cominciare a spronare pure gli universitari di questo Ateneo, perché insomma qui stanno costruendo 5.000 alloggi per studenti universitari. Insomma, capiamo pure come chi li sta costruendo, a chi li assegneranno, secondo quali graduatori e quali parametri. Nel caso, insomma, bisognerà pensare anche a questi qua. Ottimo, parla al Val, è un invito. Cogliere, no? No, ma è chiaro anche perché le prime informazioni su questi palazzi sono molto allettanti da questo punto di vista, ovvero sia che ci sono abbastanza soldi che girano in maniera strana per fare due... Proprio in un momento in cui invece le università sono con il cappio alla gola. Sì, per fare due prefabbricati si spende un po' di soldi. Comunque, questa qua è una cosa che stiamo approfondendo, ne parleremo un giorno. Detto questo... Una degna chiusura penso che sia una frase che ho sentito, e lungi da me citare che tempo che fa, ma ho sentito da un... Ah, ma comunque dopo facciamo. Vai. Un'ultima cosa, una nota positiva che noi registriamo, diciamo, è che siamo riusciti ad intervenire al di là sulla questione abitativa di Cosenza anche su paesi limitrofi come Montalto. Cioè, su Montalto attualmente abbiamo vinto, tra virgolette, vinto una vertenza con una famiglia che, insomma, siamo riusciti a fargli avere una casa, diciamo, con una sorta di canone agevolato secondo il reddito, ma è molto forzata come cosa. Però anche lì siamo riusciti ad avere, come dire, a captare questa cosa, e da qui a poco si aprirà uno sportello per il diritto all'abitare anche a Montalto. Quindi comunque crediamo che la questione abitativa non sia una questione rilegata solamente a Cosenza, ma è una questione, cioè dobbiamo cominciare, secondo me, prima di tutto noi compagni, a guardarla anche in una questione di area urbana, che effettivamente esiste. Cioè Castrolibero, Montalto, l'università, Cosenza, Marano sono vicinissime fra di loro, ci sono tante persone che vivono gli stessi disagi, ci dovrebbe essere l'intelligenza anche da parte nostra riuscire ad andare a captare tutti questi disagi, tutte queste lotte che comunque si generano anche in questi posti. Detto ciò, questo è l'esempio che resistere vuol dire creare, no? Oh no. Vai Peppe! Where? Vai parra, mo vai parra. No, ecco. Dopo questo pezzo, che insomma tutte le responsabilità se le prende il signor Flavio Stasi. Sì. Ecco, e questa sera è assente dal microfono, che però si permette lo stesso di scegliere la musica. Ecco, bisogna dirlo questo, perché quello che è chiaro è chiaro. È arrivato Tarlo con il suo carico di gioia. E sì, adesso... Comandante Tarlo è vivo, e questa è la notizia più importante della serata. Vabbè, basta minchiate però. Allora, detto ciò, dicevamo che avremmo ripreso con la questione della Marlane. La Marlane, la fabbrica dei più o meno 100 operai, insomma, che stanno chi morendo e chi è morto. Oggi c'è stato, stamattina siamo stati ad un presidio al Tribunale di Paola, in occasione del processo che si sarebbe dovuto tenere un'udienza del processo, appunto, che vede contrapposti da una parte gli operai e dall'altra tutto lo stuolo di imprenditori e compagnia cantanti che fanno capo a questa grandiosa azienda. La storia di questa fabbrica è stata già ampiamente descritta da Cicillo nell'ultima puntata in maniera anche abbastanza corposa. Comunque anche in questo c'è la partecipazione attiva di appunto i compagni di Cosenza, quelli del Rialzo e degli studenti, perché cerchiamo appunto, come abbiamo sempre detto, di essere un collettivo che guarda più o meno che si guarda intorno e che cerca di andare oltre le questioni prettamente universitarie. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori ancora che ci stanno sentendo in streaming, e quelli che ci ascolteranno in differita su Radio Roma 107.5 giovedì, e nuovamente in streaming alle 21.30 su transizionedifase.org 105.7, mi correggeva Ferdinando. Allora tu parla, tu, visto che avevo parlato. Ma io sulla Marlane posso dire ben poco, nel senso che giusto le suggestioni, insomma, su quello che ho letto. Comunque stamattina il processo c'è stato ed è stato rinviato al 24 giugno. Questi sono i dati che almeno stamattina. Comunque un presidio, diciamo, corposo, militanti del Tirreno, qualcuno di Cosenza, un po' di, soprattutto i familiari, la presenza dei familiari delle vittime della Marlane. E su questa questione qua, insomma, ampiamente scritto e parlato Cirillo, il quale gli ha dato merito di aver fatto comunque un libro inchiesta insieme a Luigi Pacchiano, insieme a Giulia Zaffino, che è veramente un capolavoro di, secondo me, di inchiesta dal basso. E comunque sono riusciti ad andare a fare questa inchiesta proprio fra le maglie di chi viveva realmente questa condizione in questa fabbrica. Una fabbrica che comunque va analizzata anche questo: negli anni in cui arrivò qui era nel pieno, diciamo, fordismo italiano, vista come la salvezza, no? Finalmente degli imprenditori che vengono ad investire al sud, poi di fatto ci si è, come dire, girata contro, perché comunque ci sono oltre 116 morti e non si sa quanti casi di tumori ancora non accertati. È una storia che ovviamente è rintracciabile in tutto il nostro territorio, non neanche a Crotone. Cioè, anche a Crotone l'esperienza della Pertusola doveva essere quell'esperienza che risollevava un popolo dalla tragica arretratezza, no? E infatti è stata quell'esperienza che ha avvelenato i lavoratori in primis, poi continua ad avvelenare oggi il territorio e anche gli studenti che fanno lezione nelle scorie della Pertusola. Quindi sì, insomma, un po' una discarica siamo stati negli anni. In più hanno potuto agire tranquillamente, perché a differenza del nord, insomma, del Piemonte, dove comunque le fabbriche là fioccavano e c'era comunque un tessuto operaio molto politicizzato, sindacalizzato, che è stato capace comunque di mettere in crisi per anni la situazione là delle fabbriche. Qui insomma arrivavano sti cattedrali nel deserto, nella miseria in cui vivevamo noi, magari gli anni 60, gli anni 50, quando molti di noi, diciamo, andavano a riempire le fabbriche del nord, no? Al vedere arrivare queste cose, chissà cosa è sembrato a questi piccoli paesi, comunque poi comunque una fabbrica all'interno di Praia vuol dire un'economia che gira, no? Delle persone che lavorano, quindi figurati cosa si è andata a instaurare e cosa hanno potuto crearci sopra, diciamo, la politica, il malaffare dei paesi, no? Cioè, è un dato di fatto che quando sono stato insieme ad altri compagni alla prima uscita del libro di Cirillo su questa questione alla Marlane, lo ha fatto in piazza, no? Una cosa pure forte, insomma, sfidare la piazza rispetto a questa cosa. C'erano tutti gli operai, un po' di compagni, e questo paese che camminava avanti e indietro senza, facendo finta, diciamo, di niente, che comunque l'attuale sindaco di Praia è implicato anche in questa situazione, che comunque dobbiamo pensare che tutte le assunzioni di questa fabbrica sono state fatte tramite clientela, quindi chissà cosa c'è dietro. Quindi questo silenzio di questo paese, è pur però, insomma, da constatare poi una cosa forte c'è, le famiglie delle vittime, i compagni comunque cercano in una condizione totalmente diversa dalla condizione in cui c'è stata la ThyssenKrupp, no? In un contesto completamente diverso. Cioè, a Torino si è smossa tutta la società civile, si è smossi tutti gli operai, insomma là c'è una condizione completamente diversa, qua siamo in un deserto politico rispetto a questa cosa. Cioè, la provincia di Cosenza si è dichiarata parte civile dopo tantissimo tempo rispetto a questa cosa, che ci hanno addirittura pensato. Quindi, è una condizione generale un po' particolare. Di certo ci dobbiamo appellare ai tribunali, cosa che sempre io lontano da me, però ci dobbiamo appellare ai tribunali per, come dire, avere giustizia rispetto a questa situazione. Il discorso è riuscire, come dire, a continuare questi presidi, insomma, con le famiglie delle vittime della Marlane, cercando comunque di far uscire tutta la verità rispetto a questa situazione. Anche perché siamo coscienti che il lavoro dei tribunali di per sé, se non viene costantemente e pedissequamente forzato dalla presenza costante di coloro che vogliono far sentire le proprie ragioni, fa ben poco di buono solitamente. Quindi ricordiamo l'appuntamento per il prossimo 24 giugno, in cui ci sarà l'udienza. Il collegamento da fare con gli ultimi avvenimenti sempre legati al mondo lavorativo, al mondo industriale, è quello sulla ThyssenKrupp, che noi direi di... Tra l'altro, le morti bianche. Direi di farlo dopo il prossimo stacco, così magari alleggeriamo un po' la cosa e poi Pierpaolo, sono perfettamente d'accordo. Pierpaolo ci farà sognare con i morti della ThyssenKrupp. Macabro. C'è pericolo, ma quali danni? Il lavoro è lavoro, basta fare attenzione. Siamo qui da 100 anni, non c'è pericolo di licenziarmi. Non mi ha assunto nessuno, ma mi conoscono tutti. Sanno dove trovarmi, ma se c'è uno che muore, potrei essere io. Non c'è pericolo, non c'è pericolo, per amore di Dio. Ma se c'è uno che cade dalla parte sbagliata, non c'è pericolo, non c'è pericolo, è solo una brutta giornata. E se c'è uno che non è tornato a casa, non c'è pericolo, e qui si rischia la paga. Nuovamente Gustavo sta facendo un po' di casino, ma siamo nuovamente in diretta. Già precedentemente Ferdinando introduceva il discorso della ThyssenKrupp. Venerdì è arrivata una sentenza che per certi versi ha un carattere storico. Lungi da noi da fare giustizialismo, da invocare l'aula di tribunale, da invocare le sentenze e il carcere, molto lontana dalla nostra idea politica. Però quello che è successo venerdì è una cosa molto importante. È arrivata la sentenza, la seconda corte d'assiso di Torino ha emesso delle condanne piuttosto pesanti, condannando Harold Espenant, spero si pronunci così, che è l'amministratore delegato della Thyssen, quindi non l'ultimo degli arrivati all'interno dell'organigramma della multinazionale dell'acciaio tedesca. L'ha condannato a 16 anni e 6 mesi, ha condannato altri 5 dirigenti a 13 anni e 6 mesi ed un altro dirigente a 10 anni e 10 mesi. Sono delle sentenze che da questo punto di vista sono abbastanza pesanti, se non fosse altro per la motivazione. Omicidio volontario con dolo, che è un aspetto molto importante perché è la prima volta che arriva una motivazione del genere, cioè in una sentenza nell'ambito delle morti per lavoro in Italia. E mi viene da ricordare quella particolare puntata che abbiamo fatto sull'articolo della Costituzione che si voleva cambiare, cioè sul ruolo sociale dell'impresa, no? Questa è una sentenza che va in una direzione completamente opposta, ovvero sia l'impresa non sa di fare sui cazzi sua, ma pure ma deve essere guardare anche i diritti e soprattutto l'incolumità dei lavoratori. E ricordiamo brevemente cosa è successo alla ThyssenKrupp. ThyssenKrupp è un colosso dell'acciaio tedesco che ha degli stabilimenti in Italia, in particolar modo a Torino, un impianto, un stabilimento in via di dismissione e a Terni. La notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, una fredda notte a Torino, stavano lavorando 8 operai, stavano facendo il turno di notte, quello più pesante normalmente, Come era accaduto già diverse altre volte negli ultimi mesi precedenti, avviene una fuoriuscita di olio bollente da una delle linee di lavoro. Ci sono dei guai tecnici, a quanto ho capito, ma riusciamo ad andare avanti lo stesso. Sì, Peppe, confermi. Allora, dicevamo, una fuoriuscita di olio bollente, così come era accaduta tante altre volte nei mesi precedenti, genera nella pratica un incendio, le fiamme avvolgono quasi tutti gli operai che erano presenti sul luogo del lavoro. Un incidente che era stato fatto presente, che si è ripetuto più volte, che era stato fatto presente ai dirigenti, che avevano fatto orecchie da mercante, se ne erano fregati altamente, hanno detto non fa niente. Gli operai cercano di impugnare gli estintori, ma gli estintori sono vuoti, non hanno niente. Le fiamme aumentano e purtroppo tutti i ragazzi, perché mi viene a dire che i ragazzi, molti loro erano giovani, 20, 30, 40 anni, vengono completamente avvolti dalle fiamme. Degli 8 operai che sono coinvolti nell'incendio, soltanto uno oggi è in vita, gli altri 7 sono al cimitero. Un saluto ai compagni del rialzo che vanno via, che ringraziamo per i preziosi interventi, ovviamente. Quindi una tragedia che 3 anni e qualche mese fa scosse l'intero paese, non tanto per le morti, perché siamo abituati purtroppo, e già ne parlavamo precedentemente della Marlane, ma ci sono tantissimi episodi che mese per mese avvengono in Italia. Comunque fu un avvenimento che scosse un pochettino l'Italia. Bene, 3 anni e mezzo quasi di tempo hanno portato a questa sentenza, che per l'appunto finalmente dà giustizia, anche se sicuramente non restituisce le vittime alle proprie famiglie. Sicuramente i 7 ragazzi che hanno perso la vita, Antonio, Roberto, Angelo, Bruno, Rocco, Rosario e Giuseppe, non torneranno più laddove dovrebbero essere. E sicuramente c'è qualcuno che sta godendo dei soldi fatti su questi morti. Chiaramente. La sentenza ha scatenato l'ira, ovviamente, della Thyssen, che non contenta di aver fatto queste morti, ha dichiarato che se nella sentenza non cambierà, loro saranno praticamente costretti ad andarsene dall'Italia. In queste condizioni, con queste tipologie di sentenze, loro non sono praticamente, non si sentono sicuri in Italia. E questo è il paradosso. E certo, perché un'azienda non può investire in Italia se è costretta a salvaguardare la vita di coloro che lavorano per far fare i soldi ai proprietari dell'azienda. O mi sbaglio? E ricordiamo che la stessa ThyssenKrupp, nei mesi precedenti questi episodi di mancata sicurezza all'interno dello stabilimento, aveva trasferito tutta una serie di componenti, di macchine, per l'appunto da Torino a Terni. Quindi erano benissimo a conoscenza dei rischi a cui erano sottoposti quotidianamente, minuto per minuto, gli operai, proprio perché mancavano tutta una serie di apparecchiature che avrebbero dovuto garantire l'incolumità, la sicurezza agli operai. Ecco quindi il dolo, non c'è soltanto una responsabilità formale, ma c'è proprio il dolo nell'accaduto. Sapevano dei pericoli che si correvano e non hanno fatto nulla, anzi hanno fatto tutto ciò che potevano per crearle queste situazioni. Che sia ben chiaro che questo dolo non è legato alla malvagità dei dirigenti della, non è l'intenzione uccidere, l'intenzione è fare profitti. L'intenzione era, vabbè, ma sì, ho giusto questo, no? Ci siamo, Peppe. Scusateci per i problemi tecnici, ma capitano ogni tanto nelle autoproduzioni. No, dico, è bello da diretta, dicevamo, cioè il dolo dei dirigenti della ThyssenKrupp non sta nel fatto che loro volevano uccidere, no. Il dolo sta nel fatto che loro hanno perseguito quella che è la legge del mercato, cioè ovvero sia, noi dobbiamo fare più soldi, e quindi se noi aggiustiamo quelle che dobbiamo fare, i lavori che facciamo, cioè facciamo i lavori mettere che dobbiamo fare. Mettere in sicurezza costa. Esattamente, mettere in sicurezza costa. E se ci sono dei lavoratori che per fame, per bisogno, per esigenza, per il fatto che magari, come dicevamo prima, la questione della casa, perché è importante, magari hanno un affitto da pagare, magari hanno una famiglia da sfamare. Esattamente. Se sono disposti anche a lavorare in condizioni pietose. E questo è un, è un chiaro sintomo di un sistema che è basato sulla morte delle classi più deboli, capito? Ci sarebbe tanto altro da dire probabilmente, ma il capitolo sulle morti bianche forse meriterebbe una settimana intera di trasmissioni 24 ore su 24. Noi certamente non possiamo gioire a questa sentenza, certo ci fa piacere, non possiamo gioire semplicemente perché ci sono sette morti e diciamo precedentemente non torneranno in vita, e soprattutto perché ancora in questi ultimi mesi continuamente altri episodi di morti sul lavoro, di morti bianche, così come sono definite, continuano a riproporsi con una continuità assurda e intollerabile. Anche questa definizione, morti bianche, è una definizione ipocrita. Come se ci fossero, sono morti nere. Come se ci fossero morti bianche, nel senso morti e morti nere. No, sono morti. Sono morti neri. Anzi, forse più che un colore, queste morti hanno un odore, un puzzo terribile di soldi. Peppe, un'altra delle tue canzoni. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Prendiamo brevemente la diretta e permetteteci di fare un saluto. Ieri mattina è venuto improvvisamente a mancare un nostro amico, un ragazzo che, con cui abbiamo condiviso tantissime, tantissime battaglie politiche negli ultimi 2 anni, le lotte universitarie e non solo. Un ragazzo che improvvisamente, senza preavviso, senza che ce ne fosse stato il minimo segnale, si è sentito male ed è morto all'arrivo all'ospedale. Non sappiamo ancora il perché e il come sia morto, ma ciò che rimane è che Gianluca non c'è più, non è più tra noi. Noi piacerebbe ricordarlo sempre con il suo sorriso, con il suo buon umore, con il suo animo pacifico, ci viene da dire. Nient'altro, è difficile andare oltre, è difficile dire altro, se non che ci mancherà sicuramente, ci mancherà durante le manifestazioni, ci mancherà durante le occupazioni, ci mancherà durante i sit-in, durante le grigliate fatte a casa sua, durante le partite a pallone che si facevano qualche anno fa davanti alla Filolotto. Ed è per questo che abbiamo pensato di fare un piccolo, Gustavo ha pensato di fare un piccolo tributo per Gianluca. Ciao Panda.